Sarah Jenkins lavora per una catena di supermercati inglesi. For a chain of English supermarkets. Che si chiama Topqual. È a Firenze per incontrare i produttori di Chianti. To meet the Chianti wine producers. Alla festa del vino di Greve. Ma Sara non parla italiano, quindi ha bisogno dell'aiuto di un italiano, Lorenzo Conti. She needs the help of an Italian, Lorenzo Conti. Lorenzo aiuta Sara anche a imparare l'italiano. Lorenzo is also helping Sara to learn Italian. In questa unità parliamo ancora del cibo e della tavola. In this unit, we're going to talk more about food and the table. E anche dell'inquinamento. And also about pollution. Inquinamento? Sì, inquinamento.